Come si fa? Carbone, nome, una garanzia. Assolutamente, ma noi non possiamo mai fare danni. Certo. Quante soddisfazioni mi dai? Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe meglio. Qui, oltre ad una pacca sulla spalla, naturalmente speriamo anche di fornire indicazioni pratiche e concrete. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Happy New Year. Da Deborah Rosciani riprendiamo Cuore e Denari, targato 2015. Intanto buon anno a tutti, ribadisco il nostro augurio. Nicoletta Carbone vi ha accompagnato nell'ultima parte del 2014, poi mi ha passato il testimone per accompagnarvi in questa prima parte dell'anno e naturalmente ci occupiamo sempre di temi che riguardano il portafoglio ma anche il benessere delle persone. Siamo certi che molti di voi, prima di Natale, avranno segnato in agenda la prima data importante del 2015. Cioè quella del 3 gennaio, domani, data di inizio dei saldi invernali. Negli ultimi anni la crisi economica ha reso particolarmente carica di attese questa giornata, non solo per i consumatori, ma naturalmente soprattutto forse per tutte le imprese italiane del commercio. E come tutti gli anni, ad accompagnare questa giornata il consueto corredo di polemiche. Perché? Perché la conferenza delle regioni e delle province autonome ha deciso di anticipare i saldi a domani su richiesta delle associazioni nazionali di categoria e praticamente tutte le regioni si sono adeguate a queste disposizioni e hanno fissato la data di decorrenza dei saldi invernali appunto a domani. E parliamo di Abruzzo, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e poi via via inizieranno tutte le altre regioni. Noi oggi facciamo il consueto punto della situazione che viene sempre accompagnato, come vi dicevo, dalle medesime considerazioni. Molti negozi sono partiti con i saldi ben prima di Natale per invitare all'acquisto i consumatori e quindi si rinfresca questa polemica che si trascina ormai da anni, e cioè ha senso dare un via libera ufficiale ai saldi o tanto vale prendere atto di questa liberalizzazione che ormai è nei fatti? Voi che cosa ne pensate? Avete già fatto tutti gli acquisti che vi eravate prefissati di fare oppure vi darete domani alla pazza gioia, un po' come farò io, portafoglio permettendo? E quindi quali sono le regole dell'acquisto da rispettare in questo caso? 800 24 00 24, il numero verde per voi. Noi ne parleremo con i nostri interlocutori che tra poco vi vado a presentare. Potete anche scriverci naturalmente al 349-238-6666. Vi lancio anche questa sfida, se volete su Facebook, sul nostro profilo mettete anche la foto dell'articolo magari nel vostro negozio di fiducia che avete adocchiato e che andrete a comprare domani, e se avete già un po' quantificato quale sarà lo sconto che vi praticherà il vostro negoziante di fiducia. Naturalmente daremo spazio anche al tema di cuore e nella seconda parte della trasmissione con il dottor Michele Cucchi affronteremo il tema della relazione fra shopping e stato emotivo. Quanto influisce sul nostro umore regalarci quello che ci piace magari a prezzo ribassato? Chissà che la soddisfazione non moltiplichi. È giusto gratificarsi ogni tanto, nonostante i tempi di magra che stiamo vivendo dal punto di vista economico, con un bel regalo, con un bel acquisto? Dateci i vostri commenti anche su questo aspetto e noi ne parleremo a partire dalle 12. Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Infatti no. Nel momento topico mi devo domandare. Mi serve davvero? Signore, dovete avere il volantino per entrare. Potete entrare anche da questo parte. Ho bisogno di questi guanti di cashmere dato che è inverno e possiedo due mani. Basta e avanza. Comprerò questi e solo questi. Ecco, Sophie Kinsell con I Love Shopping è ormai una tradizione da rispettare anche questa. Quando parliamo di questo argomento, ormai questo è il brano del film che ci accompagna tradizionalmente. Ma insomma, saldi al via da domani, con quali aspettative per i consumatori ma soprattutto per gli operatori del commercio? Allora andiamo subito a salutare gli ospiti che ci accompagneranno in questa trasmissione. Intanto abbiamo naturalmente il mondo del commercio. Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Italia, Confcommercio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e buon anno a tutti i radioascoltatori. Probabilmente la persona più intervistata della giornata, quindi questo è il vostro momento, dottor Torti. Ma io saluto anche Marco Gagliardi del Movimento Consumatori, perché naturalmente anche le associazioni dei consumatori vigilano su questa stagione dei saldi. Gagliardi, buongiorno e buon anno anche a lei naturalmente. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buon anno a tutti. Allora, io riconvoco gli ascoltatori perché voglio un po' sentire che cosa faranno domani, se hanno già stabilito un budget da spendere domani, appunto data di avvio dei saldi invernali in molte regioni italiane. Raccontatecelo all'800 24 00 24, raccontateci anche, poi magari questo è un aspetto che commenteremo dalle 12, se siete invece del partito di chi dice io mi compro il capo che desidero nel corso dell'anno, perché generalmente stabilisco quello che voglio con grande precisione, non mi interessa aspettare il momento dei saldi, perché proprio ieri sera un'amica lo diceva, io non ci penso nemmeno domani mattina di mettermi in fila in coda in un negozio, quello che mi serve lo compro durante l'anno, per cui per me non c'è proprio nessun tipo di attrazione in questa giornata. Non è certamente di questa idea il mondo del commercio, no Torti? Perché insomma, secondo voi, leggevo anche quello che avete detto in questi giorni, intanto partire il 3 gennaio è una decisione importante che va incontro alle aspettative di molti operatori in questo momento di difficoltà. Ci dice un po' che cosa vi aspettate da questo gennaio 2015? Guardi, noi purtroppo dobbiamo fare i conti con la debolezza dei consumi, le spese obbligate ed incomprimibili, e parliamo di tasse di dicembre che sono state molto pesanti, unitamente a luce, gas, assicurazioni, adesso abbiamo il canone RAI. La sfiducia nel futuro e un atteggiamento prudenziale dei nostri connazionali, però i saldi a nostro avviso saranno ancora avranno ancora quell'appeal che porterà un buon fatturato nelle casse dei negozianti e grandi possibilità di acquisto di prodotti di qualità ad un prezzo accessibile per i consumatori. Parliamo di 336 euro è la stima di quanto le famiglie italiane che compreranno nei saldi spenderanno in questo periodo. Fismo dice, la interrompo solo rapidamente, 160 euro a persona, si può quantificare individualmente la spesa prevista? No, guardi, voi non riuscite, non fate. Allora, su questo noi lasciamo ognuno dà le proprie a persona, noi stimiamo 144 euro a persona. Ovviamente le stime sono stime basate dal nostro ufficio studi di Confcommercio, sono stime basate sul fatturato annuo e sulla popolazione che acquista nel saldo, che è il 62% della popolazione globale e italiana, e più si deve tenere conto anche del 18% che è il fatturato dei saldi rispetto al fatturato complessivo del nostro settore abbigliamento, moda, calzature, articoli sportivi, pelletterie e tessile per la casa, oltre che gli accessori. E quindi insomma ci siamo anche tolti un po' la curiosità di come riuscite ad elaborare, a calcolare questo dato previsionale che rilasciate sempre all'inizio dei saldi. Per voi 144 euro a persona, che comunque sono una bella cifra. Lo sconto medio praticato per capo d'abbigliamento quale sarà? Sicuramente si parte con uno sconto medio 30-40%, cioè questa è la stima nostra, ma perché abbiamo avuto dei periodi, come ho detto prima, molto difficili durante l'anno, che sono quelli di ottobre e di novembre. Il Natale fortunatamente siamo rimasti nei livelli dell'anno scorso, perché il Natale comunque il regalo soprattutto nei nostri negozi di vicinato crea sempre quell'appeal necessario per i consumatori per andare a comprare dove c'è la possibilità poi di avere qualche consiglio, di avere un ricambio. Nei saldi speriamo di ottenere quella liquidità, perché noi ricordiamo che nei saldi noi perdiamo marginalità, quindi è per questo che non possiamo fare sconti tutto l'anno, anche se possiamo farli 10 mesi all'anno. Non stiamo parlando, quindi c'è già nei fatti li fate torti, perché lei sa benissimo, insomma, adesso vado subito al cuore della consueta questione che viene affrontata in questo frangente, diciamo in questo momento di gennaio, così come all'inizio di luglio, no, quando partono i saldi invernali e poi i saldi estivi. Il tema è che naturalmente non ufficialmente, ma molti dei nostri negozianti di fiducia ci fanno uno sconto già ben prima che parta la stagione ufficiale, e tutte le volte in questo periodo dell'anno ci ritroviamo un po' a commentare sempre la medesima situazione. Ha ancora senso, secondo lei, che la conferenza delle regioni e delle province si riunisca per stabilire formalmente, ufficialmente, l'avvio della stagione dei saldi, quando poi nei fatti, appunto, come sappiamo bene, i commercianti da tempo sono costretti a praticarli ai clienti, appunto, per poter sbarcare il lunario, perché per molti negozianti si tratta proprio di una condizione di difficoltà di questo tipo. Che mi dice su questo? Ma guardi, la questione è molto complessa. Le dico subito che innanzitutto sono le regioni che decidono, ciascuna per proprio conto e per il proprio ambito territoriale di riferimento. Detto questo, la conferenza delle regioni prende spunto da una nostra richiesta, cioè quella di cercare di uniformare la data unica dei saldi, per cercare di non far sì che ci sia lo spostamento da una regione all'altra, da una città all'altra, per un giorno prima o un giorno dopo dell'inizio dei saldi. I saldi sono vendite di fine stagione, quindi in teoria dovrebbero essere a fine stagione. Già purtroppo quest'anno, con il clima che è stato mite nel periodo di, come l'ho detto, di ottobre e novembre, abbiamo avuto difficoltà a vendere. Non ci sono più le mezze stagioni, come si suol dire, per cui purtroppo anche sì, il commercio ne risente. Sì, però noi siamo sicuramente per il rispetto delle regole, quindi chi ha inviato sms, email, ovviamente ci sono delle... noi abbiamo anche raccolto delle segnalazioni, le abbiamo denunciate alla Nonaria, quindi ai comuni ovviamente, perché facciano rispettare questo dovere, questo obbligo di legge. La data è una data certa, si conosce, e quindi deve essere rispettata da tutti, anche nei confronti di quegli operatori onesti che aspettano e che rispettano le leggi, che aspettano appunto il momento dei saldi, perché poi ricordiamo essere anche un straordinario rito collettivo, un evento capace di attrarre numerosi clienti. No, questo lo capisco, cioè, ma mi faccia capire, quindi, se voi scopriamo l'acqua calda qua, perché tanti negozi... Noi, no, quasi. Nel senso che appunto se qualche negoziante... che non ha venduto nella stagione tradizionale perché la crisi morde, sappiamo benissimo appunto quello che è successo negli ultimi anni, non è che qua dobbiamo ricommentarlo, certo, di nuovo, che pratica dei saldi ben prima della partenza ufficiale, addirittura voi siete nelle condizioni di poter, tra virgolette, denunciare e quindi far partire una segnalazione che porti ad una sanzione per il commerciante? No. Questo, Sì, sicuramente sì, cioè nel senso che se ci segnalano degli associati che trovano non rispettoso nel rispetto appunto della concorrenza leale degli operatori e ci segnalano questo, noi non è il nostro compito, perché ovviamente noi siamo un'associazione datoriale di imprese del dettaglio, dell'ingrosso dell'abbigliamento e della moda e delle calzature, ma detto questo, cioè, riteniamo che ci siano degli enti come appunto il comune che abbia il dovere di fare rispettare le leggi, e quindi segnaliamo il fatto che ci siano degli operatori scorretti. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione, raccontateci come la pensate su questo argomento. Stanno arrivando già molti messaggi. Nadia ci scrive: secondo me i saldi hanno senso, lo diceva Torti, a fine stagione effettiva, come nello spirito dei saldi dovrebbe essere, in questo caso addirittura al 21 marzo. Nadia dice che senso ha un piumino in saldo a Bolzano il 3 gennaio. Nadia, ha senso in un contesto di crisi che non ha fine a quanto pare. Poi un ascoltatore chiede di spiegare il meccanismo dei saldi, come fanno i commercianti a fare degli sconti abbastanza importanti e, dice Bruno da Reggio Calabria, a guadagnare ancora tanto. Bisogna vedere se è vero, rinunciamo a delle marginalità, ci ha spiegato Massimo Torti poco fa. 50 centesimi a sacco in più per IVA, il 22% sui pellet, per me con caldaia a pellet fanno circa 400 euro in più all'anno. Ecco dove ho messo i soldi per i saldi, ci racconta con questo gioco di parole Alessandra. Insomma, tanti i vostri commenti. Andiamo allora alla considerazione delle associazioni dei consumatori, che vigilano molto attentamente. C'è chi fa addirittura lo sportello saldi lo fa il Movimento Difesa del Cittadino da molti anni, insomma una declinazione diversa a seconda dell'attività dell'Associazione dei Consumatori. Marco Gagliardi, Movimento Consumatori, intanto ovviamente non è di buon gusto che io le faccia commentare le posizioni delle altre associazioni dei consumatori, le cito però quella un po' più rumorosa, Codacons, che salutiamo, che sostiene che l'anticipazione dei saldi invernali al 3 gennaio è una misura inutile che non influirà in alcun modo sugli acquisti degli italiani per gli sconti di fine stagione. Allora, conoscendo un po' lo spirito di questa organizzazione, se fossero stati fissati al 5 avrebbero contestato il ritardo dell'averli fissati a questa data e avrebbero detto no perché non li avete fissati l'1 addirittura. Insomma, adesso non voglio essere polemica, però qualcuna non è mai contenta di quello che si fa. Detto questo, voi cosa ne pensate? Poi naturalmente andremo ai consigli per fare dei buoni acquisti in questi giorni, perché bisogna anche sapersi muovere, fare acquisti consapevoli. Gagliardi, intanto ci dica cosa ne pensate in termini generali. Ma allora, il fatto di aver anticipato non penso che sia un problema, nel senso che mi sembra logico che coincida l'inizio dei saldi con il sabato. Forse parlare di saldi può sembrare anche un po' anacronistico al giorno d'oggi, quando esiste un mercato che, infatti vorrei sapere cosa ne pensa anche il dottor Torti, che è l'e-commerce dove i saldi sono permanenti e c'è la possibilità di acquistare a prezzi scontatissimi in qualsiasi periodo dell'anno, senza però lo stesso livello di tutela. Ha messo il dito in una piaga apertissima e costantemente sanguinante, Gagliardi. Io lo dico solamente, la interrompo brevemente, perché proprio poco prima di Natale con Nicoletta Carbone abbiamo fatto la trasmissione per commentare le scelte di 10 milioni di italiani che quest'anno hanno fatto i regali di Natale scegliendo il canale e-commerce, per l'appunto, quindi non 100 persone, 10 milioni di italiani, per cui ha assolutamente senso il fatto che lei abbia sollevato la questione. E l'abbigliamento è uno dei settori più ricercati con questo canale, per cui ecco un altro tipo di concorrenza che fa male a questo comparto, lo sappiamo bene. Prego, la lascio concludere. Ma sì, perché comunque il livello di tutela nel rapporto a distanza rispetto al rapporto face to face è inferiore, per cui comprando abbigliamento soprattutto da siti esteri, una volta che arriva un capo contraffatto o se non arriva proprio, diventa praticamente impossibile avere tutela, a differenza di un rapporto di persona che forse sarebbe anche il caso di valorizzare, dove si sa a chi riferirsi in caso di prodotto ad esempio difettoso, cioè si può tornare dal venditore e si può ottenere quello che è previsto dalla legge in tema di garanzia. Per cui noi anche come attività non abbiamo aperto uno sportello saldi, però abbiamo svolto in passato diverse attività, soprattutto di mystery client, cioè andavamo a controllare che effettivamente i prezzi pubblicati al momento dell'avvio dei saldi fosse quello effettivo e non un prezzo gonfiato ad hoc per ottenere poi l'effetto sconto, diciamo. altro tema sul quale adesso Torti avrà qualcosa da dire, però insomma molti ascoltatori puntualmente quando facciamo questa trasmissione segnalano anche questo. E poi, Gagliardi, abbiamo terminato un po' la rosa delle criticità della stagione delle vendite di fine stagione, appunto, come le chiama correttamente Torti, non di saldi. Che cos'altro dobbiamo dire? Ma noi diciamo che non vogliamo girare il coltello nella piaga di un settore che effettivamente è in crisi, per cui oggi come oggi anche i piccoli imprenditori, i piccoli commercianti sono a livello e devono essere tutelati esattamente come i consumatori, per cui auspichiamo anche noi che comunque ci sia un aumento degli acquisti, che quindi soprattutto nel commercio tradizionale ci sia un riavvio del commercio, appunto. Vabbè, lo speriamo tutti, però insomma diciamo che i commercianti, soprattutto i piccoli negozi, e qua non parlo di Milano e Roma che tutto sommato forse reggono, non lo so, adesso Torti ce lo dirà, ma sappiamo anche che nei piccoli centri, o forse hanno una maggiore, come dire, hanno una miglior situazione nei piccoli centri urbani, Torti, perché nei grandi centri in realtà, oltre alla concorrenza dell'e-commerce, che è un problema specifico, c'è la grande concorrenza di grandissimi centri commerciali che sappiamo bene quanto vi ha penalizzato in questi anni. Guardi, io sono d'accordo con lei, le dico soprattutto una cosa, che nelle grandi città ovviamente, soprattutto quelle turistiche, c'è un bacino di turismo che viene apposta e corre, qui ribadisco l'importanza dei saldi, che viene apposta in Italia a comprare un Made in Italy di qualità e comprare anche nei piccoli negozi, quelli che il dottor Gagliardi prima citava, di quelli dei nostri piccoli negozi che sono multi brand e che danno una possibilità di scelta su più marchi disponibili. La concorrenza dei centri commerciali rispetto ai piccoli centri, ai piccoli comuni, logicamente influisce, quindi sicuramente c'è una differenza anche su questo. Una cosa invece che mi preme sottolineare è come l'e-commerce sta andando ad una velocità, forse come lei ha detto prima, è in doppia cifra, però non è così importante soprattutto per il nostro settore abbigliamento, stiamo parlando di un 3-4% del fatturato globale. Quindi non è una cosa che spaventa invece l'assenza delle regole, lì ha detto benissimo il dottor Gagliardi, il fatto di non avere la certezza che si ha nel comprare, nell'acquistare un prodotto in un negozio di fiducia, nel negozio sotto casa, sicuramente su internet, pur guardando al prezzo, perché logicamente c'è una propensione all'acquisto su internet esclusivamente per questioni economiche, che guardano, certo, appunto il prezzo finale, certo, però non hanno le stesse caratteristiche di vendita e le stesse caratteristiche di fiducia che può dare un negozio di tipo tradizionale. Anche se il presidente di Netcom, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, Roberto Lisci, è venuto a rassicurarci sul fatto che in realtà poi per gli acquisti esistono forse non tutte le medesime regole, appunto, ma molte regole che in ogni caso tutelano i consumatori. Certamente un mondo nuovo che sta cercando anche di organizzarsi dal punto di vista delle tutele dei consumatori. Poi la crescita, come diceva Torti, è così dirompente che effettivamente forse si fa anche un po' di fatica a disciplinarlo in maniera attenta e puntuale. Probabilmente ci arriveremo nel tempo, è un mercato in espansione incredibilmente eccezionale, di cui bisogna prendere atto, di cui bisogna tenere conto, perché poi soprattutto le nuove generazioni sempre di più acquisteranno prevalentemente attraverso questo canale. Al momento, in ogni caso, c'è ancora qualche questione in sospeso da risolvere nella tutela appunto del consumatore finale che procede all'acquisto attraverso il canale online. Detto questo, allora sono le 11:28, fra un po' devo fare la borsa, però direi che possiamo cominciare un pochino ad agitare le acque con le riflessioni dei nostri ascoltatori. Che si è messo per primo si è candidato per primo Nicola da Padova, che saluto, a cui auguro naturalmente buon anno. Lei è il nostro primo ascoltatore del 2015 di Cuore e Denari, è contento? Buon anno a tutti. Eccoci Nicola, ci dica. Ma guardi, io lavoro nel settore, quindi quello che lamento, essendo un operatore, è questa selvaggia licenza di vendite promozionali e di sconti che non fa assolutamente bene ai saldi. Lei è riuscito a tenere duro, Nicola, nel senso che fino a domani... Ma io lavoro per un'azienda, quindi do indicazioni ai nostri negozianti, che si trovano davanti però a una concorrenza assolutamente sleale. Già a novembre abbiamo avuto le vendite promozionali ormai generalizzate, e i nostri esperti potranno dire del 30%, anche in alcuni casi del 40%. Ma d'altronde, ma Nicola, che cosa bisogna fare? Se il negozio è vuoto e non entra nessuno, non è meglio? Guardi, la mia è un'azienda straniera, noi all'estero abbiamo delle indicazioni completamente opposte, nel senso la liberalizzazione dei saldi dà la possibilità al cliente in qualsiasi momento di scontare della merce che non si vende, quindi di venderla comunque ad un prezzo interessante, e di fare effettivamente dei saldi nel periodo in cui i saldi erano nati, quindi a fine stagione, con le rimanenze del magazzino, con merce vecchia. Io posso vendere nel 2015 la merce vecchia del 2013 in qualsiasi periodo dell'anno. Certo. Anche perché, come avete detto giustamente voi, la vendita per corrispondenza in Italia è ancora a bassi livelli, ma abbiamo delle indicazioni di mercato. La vendita per corrispondenza era quella dei cataloghi, Nicola, adesso diciamo si è evoluta, è il canale e-commerce, l'online, però più o meno il principio forse rimane lo stesso, è una vendita a distanza, giustamente lei dice. Da e-commerce, la vendita per e-commerce. E sta assumendo anche in Italia delle proporzioni importanti, perché ci sono delle stime di crescita esponenziali che negli altri paesi non c'è, perché ovviamente sono molto più avanti. Quindi è una concorrenza effettivamente poco coerente con le regole del mercato. Nicola, grazie per la sua testimonianza, la prima per Cuore Denari di 2015. Adesso chiedo qualche minuto di pazienza a Marino da Salerno, a Lino da Catanzaro, ai nostri ospiti, a Massimo Torti e Marco Gagliardi. Io devo fare la borsa, vediamo un po' come ha aperto l'anno il mercato. Cuore e Denari. Mi allontanerò forte e parsimoniosa. Oh, ho trovato gli stivali di Pucci! Oh, mi dispiace tanto. Io ho visto che li lasciava sul banco. Dammeli e non ti succederà niente. Sì, ma no! Falla quegli stivali! C'è una svendita di Burberry! Ah, un trucco vecchio come il cucco! Dammeli! No, dammeli tu! Sono stata in fila tutta la mattina per prenderli! Dobbiamo ammetterlo, è certamente un atteggiamento prevalentemente femminile, quel sentimento che ci si scatena dentro quando l'articolo dei nostri sogni, insomma, lo troviamo magari a prezzi scontatissimi, ci possiamo concedere questo regalo e chissà quanti di noi domani esaudiranno questo desiderio, perché in molte regioni parte ufficialmente la stagione dei saldi invernali con il consueto corredo di commenti sulla liberalizzazione o meno e sul fatto che sia o meno necessario stabilire una data formale di partenza, quando nei fatti, lo sappiamo, molti negozi ben prima addirittura di Natale praticano degli sconti anche importanti, magari lo fa soprattutto nei confronti della clientela di fiducia, ma spesso e volentieri lo si fa proprio per cercare di coprire delle stagioni che sono molto insoddisfacenti dal punto di vista del business, del fatturato per molti negozi. Ne stiamo parlando questa mattina con Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Italia, quindi Confcommercio, e poi con Marco Gagliardi del Movimento Consumatori, con il quale faremo adesso anche un punto sulle regole di base per un acquisto oculato, perché anche lì qualche volta, insomma, la disavventura è dietro l'angolo. Anche il mondo del commercio lo sa bene e cerca di ovviamente di invitare i consumatori a fare attenzione anche a quegli operatori commerciali che non si comportano correttamente. Adesso qua molto spesso le associazioni dei consumatori parlano di vere e proprie fregature, a me questo termine non piace, diciamo che molto spesso, qualche volta anche per liberare i magazzini, in questo periodo si tira fuori di tutto e i negozianti mettono così chiaramente in vendita anche articoli che magari risalgono a stagioni vecchie. La stagione ufficiale dei saldi, dottor Torti, lei me lo insegna, deve fare in modo che il commerciante metta in vendita i prodotti della stagione più recente e chiaramente deve distinguere in maniera molto precisa, se vuole venderli lo può fare naturalmente perché nessuno glielo può impedire, ma deve distinguere molto attentamente all'interno del negozio gli articoli che appartengono a stagioni ancora precedenti. No, questa è la prima regola di base del saldo corretto, se possiamo far passare questo termine. Massimo Torti, sì. Allora, le vendite in saldo sono quelle di fine stagione, quindi quelle che se non vendute entro un certo tempo subirebbero un notevole deprezzamento, quindi ovviamente le vendite della stagione sono le vendite della stagione, altrimenti si possono fare delle promozioni su degli sconti, ma su prodotti che non sono della stagione. Le vendite in saldo sono quelle della stagione. Quindi tra l'altro mi faccia capire, adesso poi continuo ad interromperla, sì. Ma ad ogni sua considerazione mi vengono delle curiosità. Quando un commerciante effettua dei saldi in periodo non ufficiale, non formale, li può fare ma li deve chiamare promozioni, allora in quel caso magari non partirebbe la vostra famosa segnalazione all'annonaria? Nel senso che ci sono 10 mesi all'anno di possibilità di fare sconti, di cui 2-4, quindi per i saldi invernali, i saldi estivi sono quelli dedicati ai saldi, quindi alle vendite di fine stagione. Durante gli altri mesi è possibile fare degli sconti che si chiamano promozioni. L'obiettivo della promozione è una promozione mirata, cioè su un prodotto, su sconti su determinate merci che sembra che magari non vogliono accelerare il consumo, quindi sembra che non stiano carburando gli acquisti, e allora alcuni commercianti li mettono in sconto nel periodo precedente, ma non è vietato, e qui è molto chiara la legge, è vietata nei 30 giorni antecedenti i saldi. Chiarissimo. Per evitare confusioni di ogni genere tra promozioni e saldi. E poi però anche se mi chiedo se il consumatore finale poi riesca a percepire e a capire la differenza anche della terminologia diversa, per lui è un acquisto conveniente e basta. Le dico subito, noi abbiamo fatto una ricerca ricerca come Confcommercio Format Research, che, secondo la quale 9 su 10 confermano il giudizio positivo sulla qualità dei prodotti in saldo. Quindi diamo anche merito ai consumatori di saper scegliere, e logicamente ognuno di noi è consumatore e non va a scegliere, anzi ci sono molte persone, e questo è appurato, che vanno in giro nelle città, nelle vie commerciali e nei negozi a controllare prima i prodotti, in modo tale che quando ci sono i saldi vanno a conquistarli quegli stessi prodotti in saldo. Voleva commentare la considerazione di Nicola da Padova, Torti? Guardi, sicuramente noi abbiamo, per quanto riguarda, dice giustamente, cioè c'è confusione, la confusione non chiarisce esattamente qual è il modello di vendita più corretto. Noi in Italia abbiamo queste leggi che ci dicono che ci sono le vendite promozionali, ci sono le vendite in saldo, ci sono le vendite di liquidazione. Su internet non c'è una regola, sicuramente si avanza, però c'è anche la regola, e qui anche i consumatori lo possono confermare perché è stata introdotta proprio dal codice del consumo a giugno quest'anno, sì, sul diritto di recesso. Sul diritto, certo, di recesso, quindi è molto più facile per un acquirente che non è contento dell'acquisto via internet rivalersi sul venditore online e quindi trovare la giusta compensazione. Devo dire che questo è in questo momento un territorio di grandissima e altissima osservazione da parte delle associazioni dei consumatori, lo dicevamo anche in qualche puntata fa, in questo ultimo periodo stanno proprio spostando la loro attenzione su queste nuove modalità di acquisto, quindi transazioni commerciali. È evidente che è un terreno appunto che deve evolversi anche dal punto di vista della normativa e del controllo, per cui ha fatto bene a segnalare Torti la novità introdotta dal codice del consumo appunto di giugno, che ha rimodulato un po' tutte le tutele dei consumatori, in particolar modo sul diritto di recesso. Lascio completare. E quindi questo evidenzia sicuramente una situazione complessa anche da analizzare da parte di tutti gli operatori in campo. Certo che le vendite di fine stagione dovrebbero essere veramente effettivamente a fine stagione, ma perché? Perché diceva bene Nicola da Padova che la marginalità dei commercianti è sempre più erosa da una vendita posta in sconto, quindi praticamente più si fanno sconti e meno c'è, esatto, la possibilità di stare in piedi per un negozio, diciamo soprattutto per i piccoli, perché poi lei ha detto prima raggiungere i propri negozi, i propri clienti fidelizzati, ma pensi un colosso di vendite come può essere una qualsiasi grande distribuzione, pensi quanti clienti può fidelizzare, a differenza dei piccoli clienti, dei piccoli negozi che non hanno la possibilità, anche perché non sono strutturati, a raccogliere un database così ricco di clientela. E quindi andare a comprare un cappotto in sconto nel periodo dei saldi, antecedenti i saldi, proprio anche per dedicato alla clientela fidelizzata, vorrebbe dire una concorrenza sleale nei confronti di quelle centinaia di migliaia di operatori che invece aspettano la legge, rispettano la legge, aspettano il periodo giusto dei saldi. Allora, sul tema Torti della marginalità per i commercianti, si è scatenata tutta una discussione anche al 349-238-6666. Inconsapevolmente molti ascoltatori stanno esprimendo commenti differenti, perché per la verità qualche dubbio ci viene su questo argomento, sul guadagno del commerciante nel settore dell'abbigliamento, quando vediamo uno sconto secco magari da domani al 50%. Poi ci torniamo. Adesso sentirei altri ascoltatori all'800-24-0024. Marino da Salerno sul podio come secondo ascoltatore di Cuore Denari del 2015. Benvenuto Marino. Buongiorno a lei, grazie, medaglia d'argento, sono felice. È felice. Io volevo semplicemente chiedere se la prassi in uso in alcuni esercizi commerciali di mettere i saldi, non si cambiano dei cartelli che evidenziano questo, è corrispondente appunto alle normative che anche ultimamente avete richiamato, cioè sulla tutela del consumatore, il recesso. Allora, secondo noi, grazie mille Marino, secondo noi no. Vado subito a Marco Gagliardi, che peraltro è un avvocato, per cui potrà dirci qualcosa di più anche su questo. Io credo che commerciante onesto di fronte ad un prodotto o difettoso o insoddisfacente comunque lascia che il consumatore possa avere il suo diritto di ripensamento, no, sull'acquisto. Gagliardi. Sì, L'aspetto della trasparenza, soprattutto nella pubblicazione dei prezzi, è l'aspetto chiave, nel senso che poi è richiesto, secondo noi, è opportuno un ruolo di controllore al consumatore che prima dei saldi può andare a verificare i prezzi, poi appena iniziano i saldi verificare che non siano stati gonfiati, che venga pubblicato correttamente il prezzo, cioè il cartellino deve pubblicare il prezzo iniziale, il prezzo finale e lo sconto in percentuale. Un altro aspetto che sicuramente deve essere sottolineato è quello della garanzia legale, per cui non è previsto un diritto di ripensamento per legge. Legge. A differenza dell'e-commerce, dove appunto c'è un diritto di recesso. Certo, perché lì lo vediamo dopo l'articolo che abbiamo comprato, quindi giustamente. Però magari per un capo d'abbigliamento in un negozio dice lei dobbiamo forse accorgerci già lì intanto dei possibili difetti. Sì. E anche, perché se il difetto è evidente non si applica neanche la garanzia e viene venduto, se il bene viene venduto come difettoso viene venduto scontato come tale. Diversamente se il difetto viene scoperto entro 2 anni dalla consegna si applica la garanzia legale che può essere fatta valere nei confronti del venditore. Anche se il prodotto è stato acquistato in saldo, in vendita promozionale. Esatto. Quindi la garanzia legale è diversa dal diritto di ripensamento che durante i saldi teoricamente per legge non si può esercitare. Sì, poi ciò non toglie che comunque la correttezza, soprattutto per quello che dicevamo prima, per il rapporto di fiducia che si può creare nella vendita, diciamo face to face, il venditore vada incontro al cliente e sostituisca anche il capo d'abbigliamento con la taglia sbagliata o garantisca. Perché magari qualche volta può essere un regalo, perché chiaramente se l'acquisto lo faccio per me e se so che quel commerciante non vuole garantirmi il diritto di ripensamento, allora cerco di controllare tutto al momento dell'acquisto, me lo provo, faccio tutto quello che devo fare, cosa diversa che se devo regalarlo e magari chiaramente l'utente finale non è soddisfatto per magari se si sta, come dire, patti chiari, amicizia lunga, se lo si sa dall'inizio magari uno all'acquisto rinuncia, no? Se proprio ha un commerciante particolarmente rigido, diamo questo suggerimento di buonsenso Gagliardi e salviamo capre e cavoli, come si dice. Poi in caso di violazioni si possono fare segnalazioni alla polizia municipale e anche l'associazione dei consumatori, noi abbiamo predisposto una mail che è sosacquisti@movimentoconsumatori.it e presentiamo in casi eclatanti anche esposti all'autorità garante della concorrenza. Ah sì? Vi stanno già arrivando delle segnalazioni, Gagliardi? Non sono ancora iniziati i saldi, quindi siete ancora. Ha ragione, anche io potrei fare delle domande più intelligenti, possibilmente, magari glielo chiedo la settimana prossima, nel frattempo per rinfrescare un po' la memoria sulle cose intelligenti da dire, sentiamo cosa sta succedendo sulle strade italiane. Cuore e denari. Ciao a tutti, io mi chiamo Rebecca Bloomwood. Ciao Rebecca. In realtà sono qui per fare contenta un'amica. A me piace fare shopping. Non ci trovo niente di male, voglio dire. La trovo un'esperienza piacevole. La lucentezza della seta, drappeggiata intorno a un manichino. E l'eccitazione che provi quando strisciano la carta e autorizzano il pagamento. Questo non vi fa sentire sicuri di voi e pieni di vita? Devo comprare una borsa nuova. So che c'è una svendita da Catherine Malandrini. Sei la mia anima gemella. Tu trovi tutto. Devo andare. Buona fortuna a tutti. Dov'è la carta di credito? Becky Bloomwood, la protagonista di I Love Shopping, la nostra grande protagonista di Cuore e Denaro. Ogni volta che affrontiamo il tema dei saldi, in questo caso quelli invernali, partono domani molte regioni italiane con il consueto corredo di commenti sul tema saldi tutto l'anno. Ci raccontava prima Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Italia Confcommercio, le motivazioni per cui, che peraltro conosciamo anche bene perché ognuno di noi in famiglia conosce le motivazioni per cui non spende. I temi sono, a parte le stagioni un po' ballerine che chiaramente magari ci portano a fare un acquisto di un capo d'abbigliamento, chiaramente con la stagione mite non è che ci viene proprio la voglia di comprare il piumino nuovo. Ci sono poi le difficoltà economiche, disoccupazione ancora alta, e ci sono anche le paure per le nuove tasse. Molti ascoltatori lo segnalano con questi chiari di luna. Non sapremo quanto pagheremo, per esempio, per quello che riguarda la fiscalità generale il prossimo anno. Preferiamo tenere da parte piuttosto che domani, appunto, andare a così infiammare la carta di credito con i saldi. E invece qualcuno domani si gratificherà. C'è un ascoltatore che solleva un aspetto interessante, perché ci dice Rino dalla provincia di Mantova: l'acquirente non ha nessuna capacità di conoscere il prezzo dell'oggetto in saldo 10 giorni prima dei saldi. Allora, io su questo, Rino, non sono d'accordo, perché se mi interessa un articolo e ritengo che magari per Natale posso farne a meno e proprio aspetto l'inizio dei saldi, io posso certamente in quel negozio monitorarlo per qualche giorno. Cioè, facciamo anche il nostro dovere di consumatori, comportiamoci consapevolmente. Perché dobbiamo entrare per la prima volta nella nostra vita in un negozio e vedere l'articolo evidentemente che ci piace senza mai esserci entrati prima? Può capitare, certamente, ma se come dice un altro presidente di un'altra associazione dei consumatori, Pietro Giordano di Adiconsum, cominciamo a votare con il portafoglio. No, Gagliardi, lei che ne pensa? Perché non è vero che non si può conoscere il prezzo dell'oggetto in saldo qualche giorno prima dell'avvio dei saldi. Assolutamente. Non è che ogni giorno il commerciante si diverta a cambiare il prezzo. Ci potrà essere pure qualcuno che lo fa, ma mediamente non credo. Ma senz'altro, noi infatti l'estate scorsa avevamo fatto un'attività di mystery client, per cui eravamo andati noi stessi a controllare dei prezzi, poi nel periodo di saldi siamo andati a vedere se erano stati gonfiati, e purtroppo in alcuni casi abbiamo riscontrato che è successo. Poi appunto, come dicevi giustamente tu, Deborah, è il ruolo di controllore da parte del consumatore, che è attento, che va a verificare, è fondamentale. Senza nulla togliere che in generale il livello di onestà dei negozianti sicuramente è certo. Intanto altri ascoltatori dicono che non acquisteranno niente domani perché si risparmia per la tassa sul riscaldamento per stufe. Questa cosa del pellet, ormai tra l'altro un cavallo di battaglia di Sebastiano Barisoni a Focus Economia da settimane, stiamo andando verso la conclusione, ma abbiamo ancora 7-8 minuti di tempo da trascorrere insieme. Sentirei un paio di ascoltatori. Lino da Catanzaro, buongiorno. Medaglia di bronzo di Cuore e Denari 2015. Buongiorno. No, una medaglia sudatissima comunque in attesa. Lo so, sa com'è, abbia pazienza. Siete in tanti anche oggi, a noi fa molto piacere questo. Bene, intanto auguri, sono Lino Polimeni, chiamo da Catanzaro. È tutto falso quello che si sta dicendo in parte in trasmissione, con tutto il rispetto dei vostri interlocutori. Perché? Perché intanto i commercianti dovrebbero chiarire la posizione in merito alla merce che si vende. Io non voglio comprare Made in Cina. Io non voglio comprare nei negozi o nelle grandi catene Made in Cina. Voglio il mio prodotto italiano. Me lo volete vendere? Prima di tutto. Seconda posizione, le attività di... Però, scusi, Lino, solamente una piccola precisazione. Se lei entra in un negozio, vede un articolo Made in China, perché ha la vista per poter guardare l'etichetta, e non le piace, può uscire da quel negozio e fare il suo dovere di consumatore. Cioè, c'è un commerciante... Io il dovere di consumatore lo faccio, ma spesso ci mettono RPP, Repubblica Cinese, ci cambiano le targhette e spesso è una vendita non... tranquilla per chi non se ne intende. Spesso molte donne, molti anziani non riescono a percepire questa vendita così eclatante in negozi di grandi catene, che confondono le idee con la bellezza e con l'esposizione. Mi scusi che lo dico. Ma la cosa importante è chiarire che i messaggi arrivano dai negozi griffati, che avvisano già a dicembre o a luglio, dipende dal periodo estivo. Chiedo scusa, i consumatori dove sono? La Feder Consumatori, quelli che difendono i diritti dei cittadini. Qui in Calabria la Feder Consumatori non esiste, non funziona, o meglio, quando li chiami non rispondono alla... Molto bene. Allora, intanto segnaliamo a Rosario Trefiletti, che speriamo stia ascoltando, però ce ne sono anche altri. Poi sentiamo Gagliardi, Movimento Consumatori, se in Calabria... Sì, monitora un po' questa situazione. Vuole concludere Lino, poi voglio andare a Mauro. Posso dire un'altra cosa? Certo. E in merito agli sconti, scusi, qui in Calabria partiranno domani gli sconti. Sì. Domani, esatto. Ecco, in Italia il resto, diciamo oggi Campania e Basilicata, domani tutta Italia. Ma chiedo scusa, ai commercianti, ma il fatto di vendermi con il 50% di sconto, il 60% e anche il 70% ed è vergognoso. Ma perché durante l'anno non mi vendono un prodotto ottimo a un prezzo equo? Allora, l'avevo sollevato, Lino, l'avevo sollevato io prima, il tema degli sconti superiori al 50%, perché naturalmente quando un commerciante ti pratica uno sconto di questo tipo, e allora è chiaro che al consumatore, all'acquirente, viene il dubbio, ma insomma, se io ti avessi comprato quel capo perché magari ne avevo bisogno 2 mesi fa, prezzo pieno, ma tu quanto ci guadagni? Adesso non sono tutti così, lo abbiamo detto, lo sconto ragionevole del 30%. Torti, le ha servito un piatto il nostro ascoltatore di Catanzaro, che è veramente ricco. Aspettate a chiamarci l'ultimo momento, mannaggia, avremmo potuto vivacizzare tutto il programma, ma ce la facciamo. Ricchissimo, innanzitutto inizio dal Made in China. Allora, innanzitutto bisogna dire che c'è un regolamento comunitario che prevede, che si fa riferimento al codice delle dogane, che prevede che il Made in non sia obbligatorio, e questo è il primo punto di partenza, e questo è sbagliatissimo per noi, e vogliamo, anzi abbiamo pressato le istituzioni italiane ed europee affinché diventasse obbligatorio l'iscrizione e la presenza in etichetta del Made in, soprattutto appunto per la qualità del Made in Italy, ecco, ovviamente. Altra questione, ovviamente sono d'accordissimo, se un consumatore se legge Made in China non compra, perché vuole acquistare un prodotto Made in Italy, e per noi è ancora meglio, perché noi siamo per a favore del nostro prodotto, perché è un prodotto di qualità a un prezzo congruo, poi tra l'altro ed è qui il rischio, ed entro nell'altra tematica degli sconti tutto l'anno. Il rischio, se si facessero sconti tutto l'anno e si iniziassero i saldi ancora prima, significherebbe abbassare nei nostri negozi, in tutte le forme di vendita, la qualità dei prodotti, perché si andrebbe a prendere non più la qualità, ma si andrebbe a prendere in considerazione il prezzo, e quindi dove ci può essere più marginalità. Questo è il nostro timore e il nostro rischio che noi paventiamo nelle case di vendite di saldi anticipati. Per quanto riguarda l'ultima domanda, 70% di sconto. Io domattina vado a comprare la maglietta che ho monitorato per tutto l'autunno, perché dico adesso, appena, siccome non ne ho bisogno urgentemente, appena partono i saldi me la vado a comprare, e vedo che il negoziante me la mette lì al 70% di sconto. Che cosa devo pensare? Chiaro che la prendo subito, però? Esatto, sicuramente la prende subito. In realtà si pensa sempre a quel discorso, l'ho detto prima, una qualità non può avere uno sconto così alto, quindi tanto più qualità, il 70% non lo raggiungerà quasi mai, se non proprio a fine saldi, quando c'è il rischio, il timore di che questo prodotto rimanga in magazzino. Questo perché? Perché noi andiamo a ordinare 8 mesi prima, la merce ci viene consegnata a settembre, abbiamo il tempo necessario, quindi settembre, fine settembre, ottobre, novembre e dicembre, per venderla a prezzo pieno. A prezzo pieno sta a significare che noi possiamo mantenere aperti i nostri negozi, cioè vale a dire pagare i commessi, pagare la luce, pagare il gas, esatto, e tenere anche in considerazione le rimanenze, perché quando rimangono anche dopo i saldi i capi in magazzino, i soldi a noi non ce li dà più nessuno. E quindi questo è il rischio, che è il rischio dell'imprenditore, e ovviamente noi prendiamo, e perché ci sono i saldi? Perché ci danno la possibilità di avere la liquidità necessaria per pagare le collezioni primavera-estate dell'anno prossimo. Perché voi, ecco, questo ha fatto bene a ricordarcelo, Torti, perché mi ricordo in trasmissioni del passato che c'era proprio qualche commerciante che ce lo ricordava. Non dimenticate che noi, non appena è finito tutto questo giro, insomma, del saldo, siamo già pronti con le collezioni nuove, che sono magari già in magazzino pronte ad essere esposte, le abbiamo già pagate nella totale incertezza di quello che venderemo, quindi voi siete in costante situazione di investimento sull'anno successivo, che, esatto, quindi anche questo dobbiamo ricordarcelo. Nel frattempo che stiamo andando ancora un paio di minuti verso la chiusura, 3 associazioni dei consumatori, le vedo adesso dalla mia mail, hanno lanciato tutti i loro consigli, naturalmente, per fare degli acquisti oculati in questa fase, e qualcuno stabilisce già quello che sarà un po' il calo delle vendite. Su questo c'è un giudizio generale unanime, previsto appunto per questi saldi 2015. Adiconsume dice che ci sarà un calo di circa il 9% rispetto ad un anno fa, determinato da crisi economica, sviluppo del commercio elettronico e dal voto col portafoglio, come diceva appunto Pietro Giordano. Ci sono le istruzioni per l'uso di ADUC e anche l'Unione Nazionale Consumatori poco fa ha parlato di saldi sottotono. La voce abbigliamento registra un crollo del 30% abbondante dall'inizio della crisi, e poi consigli per gli acquisti appunto dell'Unione Nazionale Consumatori. 5-10 secondi di tempo, se ce la fa Gagliardi, per ricordare agli ascoltatori che per il commerciante che chiede di essere pagato solo con contante, insomma lì si può anche stabilire una piccola discussione, perché la carta di credito e il bancomat devono essere accettati ovunque. Assolutamente sì, poi aggiungere altri tre consigli, cioè di provare quindi i capi, tenere gli scontrini, fotocopiare quelli su carta chimica, che sennò si diventano illeggibili dopo poco tempo, e poi far valere i propri diritti, replicando all'ascoltatore calabrese, ma proprio per raggiungere il consumatore in tutta Italia e anche all'estero, italiani, abbiamo creato uno sportello online, perché possiamo offrire garanzia sempre online, a certo, distanza, per tutti. Benissimo, grazie Massimo Torti. Buona giornata e buoni saldi naturalmente, noi ci risentiremo magari più avanti per capire com'è andata. Grazie anche all'avvocato Marco Gagliardi del Movimento Consumatori, ma noi ne riparleremo dopo il giornale radio, perché naturalmente abbiamo un po' tutto l'aspetto emotivo dell'acquisto in saldo. Che cosa vi regalerete domani, che come intendete gratificarvi, e avete aspettato tutte le vacanze di Natale che partissero i saldi per gratificarvi con l'acquisto che avete desiderato negli ultimi mesi? Cuore e denari. Avete presente quando incrociate due begli occhi che vi sorridono e il cuore vi si scioglie come una noce di burro su pane tostato caldo? Io mi sento così quando vedo un negozio. E dopo hai un tuffo al cuore quando ti rendi conto che... $320 per una muta da sub! $787 di biancheria intima. L'intimo è un diritto umano inalienabile. Questa frase dell'intimo, un diritto umano inalienabile, di Becky Bloomwood, mi ha sempre veramente divertito, insomma, per chi ha visto questo film che ormai accompagna tradizionalmente questa nostra trasmissione dedicata ai saldi, è un po' anche quello che commenteremo in questa seconda parte del nostro programma, perché cercheremo di interpretare un po' tutti quei sentimenti che si scatenano in noi quando, non succede a tutti naturalmente, però insomma quando possiamo mettere le mani sull'articolo, il capo di abbigliamento, anche insomma in termini generali il nostro oggetto del desiderio che abbiamo agognato tanto, e poi lì ecco in negozio disponibile lo troviamo a prezzo o stracciato o comunque scontato, che cosa ci succede dentro? Abbiamo questo tuffo al cuore, come diceva Becky, addirittura sente il profumo dell'acquisto, un po' come se gustasse qualcosa di, dal punto di vista enogastronomico, molto buono. Insomma, i saldi sono arrivati, è il tempo di acquistare quel capo che abbiamo adocchiato prima di Natale, un'occasione per rinnovare il nostro guardaroba, ma anche per gratificarsi un po', e perché no, per tirarsi sul morale. È bello perdersi, lasciarsi ammaliare dalle proposte che ci strizzano l'occhio, che ci fanno l'occhiolino, e poi in questi tempi di magra economica in cui continuiamo veramente a devastare l'animo dei nostri ascoltatori continuando a parlare di crisi in ogni salsa, magari ecco che arriva quel momento in cui vogliamo mettere da parte tutte queste preoccupazioni comprandoci qualcosa di bello, certamente senza buttar via del denaro, ma magari fare questo acquisto quando i saldi sono arrivati. Allora ecco che magari ecco il senso di colpa è un po' inferiore. Prezzi ribassati, super offerte, affaroni, tutto questo è la magia dello shopping ed è difficile resistere. Così si esce per dare un'occhiata, poi si torna a casa con qualcosa di utile, ma qualche volta anche con qualche cosa di futile di cui forse non eravamo neanche tanto convinti mentre lo stavamo comprando, ma tant'è, è finito nel bottino dei saldi. Vuoi mettere l'effetto psicologico? Oggi ne parliamo con un esperto. Intanto do il buon anno con tutto il nostro affetto ad un amico di Cuore e Denari, il dottor Michele Cucchi, psichiatra e direttore sanitario del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti, buon anno. Senta, poi faremo anche nel corso di questa nostra analisi la differenza fra comportamento e atteggiamento maschile e femminile in questo frangente. Lei di che partito è? Di quelli che non vedono l'ora che inizino questi saldi? Domani ha già intenzione di andare a farsi una bella fila in qualche negozio oppure non ci pensa nemmeno, aspetterà magari la prossima settimana? Ci può raccontare qual è il cookie privato in questo senso? Per fortuna sono stato già gratificato, ampiamente soddisfatto a Natale. È arrivata la Befana con grande anticipo, Babbo Natale le ha già portato tutto quello che doveva portare, per cui lei è contento così. Per cui riesco ad andare avanti sperando i santi. Io non posso garantirlo, però vedremo domattina come mi sveglio. Senta, dottor Cucchi, dietro ad un acquisto ci possono essere motivazioni diverse, no? Si può comprare per necessità, per puro piacere, per essere fashion o per provare quella sottile gratificazione che un oggetto nuovo sa regalarci. Partiamo da qui. Invitiamo i nostri amici a provare a riconoscersi in questi profili. Ci dia un aiuto professionale ad elaborarli. Beh, innanzitutto i saldi scatenano la psicologia dello sconto. Quindi al di là di essere un grande compratore, una persona attenta insomma al make-up, alla moda, il saldo è il momento dell'occasione, per cui anche persone che magari comprano poco vedono nell'occasione del saldo il movente giusto. Dopodiché giustamente si compra per motivi davvero diversi, si compra per necessità, per cui ci sono le persone che hanno pianificato scientemente, come un po' pianificano tutta la loro vita, anche i saldi, l'acquisto durante i saldi, hanno già diciamo addocchiato la loro preda. Idee molto chiare, insomma. Esatto. Ci sono poi le persone che lo fanno per moda, per cui il saldo è semplicemente il momento in cui risparmiare qualcosa, che però è un trend che si mantiene nell'anno. Certo, non si può non esserci domani mattina dentro a qualche negozio, esatto, o qualsiasi, ma bisogna acquistare qualcosa. Poi ci sono le persone che invece vengono un po' colte alla provvista dall'impulsività, perché non dimentichiamoci che davanti a una gratificazione, perché l'acquisto è una gratificazione, possiamo essere colti dall'impulsività, soprattutto se possiamo riconoscere nei nostri comportamenti abituali questo tipo di inclinazione. Quindi uno esce domani per fare una passeggiata con l'amica che deve andare a comprare una magliettina e impulsivamente compra qualcosa. Magari l'amica non compra niente, ma usciamo noi dal negozio con qualche cosa, perché poi succede anche questo. E quindi poi magari ecco l'impulsivo lo analizzeremo un po' meglio, dottor Cucchi, perché è quello che di solito poi amplifica il suo senso di colpa, no? E quindi dovremmo anche cercare di rassicurarlo, perché non è che abbiamo poi commesso un delitto se ci siamo portati a casa qualche cosa. Poi però combattere con questo terribile senso di colpa è molto difficile. Abbiamo tracciato tutti i profili? Sì, dobbiamo dire anche che ovviamente acquistare è una gratificazione, e nel momento in cui siamo un po' in carenza di coccole, l'acquisto come il gelato, la cioccolata, insomma qualcosa di gradevole e immediatamente gratificante, ci aiuta un po', è proprio un meccanismo neurobiologico. E allora, se siete quell'impulsivo che avete fatto l'acquisto così di getto, che non avevate minimamente pianificato, dottor Cucchi ci giustifica e ci dice che è come essersi, come dire, gustati una tazza di cioccolata calda anche quando siamo a dieta. Non dovremmo, ma insomma non succede niente di grave, a meno che non abbiate effettivamente un po' consumato tutto il credito sulla carta di credito, quindi poi c'è impulsività e impulsività. Però raccontateci in quale profilo vi siete riconosciuti, quello del consumatore che compra per necessità e pianifica tutto nel micro dettaglio, oppure lo fate per moda perché durante i saldi qualche cosa bisogna per forza portarlo a casa, o siete quella persona accolta generalmente alla sprovvista, uscite con l'idea di dire non compro assolutamente niente e invece nel primo negozio in cui si entra portate già a casa qualcosa e quindi poi si scatena questa impulsività della quale vi pentite due secondi dopo? 800 24 00 24, se volete condividere il vostro profilo con noi, e poi vedremo insomma che cosa ne pensa il dottor Cucchi. Dottor Cucchi, lo shopping ha il suo fascino e noi donne lo sappiamo bene, qua devo un po' abbassare la voce, ma perché ci piace così tanto? Se siamo sinceri, sappiamo bene che non compriamo oggetti semplicemente perché ci servono. Quali sono i meccanismi più profondi che si scatenano in questo atto, diciamo così? Beh, ci sono tre grossi elementi per cui le donne sono sicuramente più diciamo dedite a questa attività. Innanzitutto le donne sono più familiari all'acquisto per motivi anche sociali, sono molto più attente alla moda, tendono a seguire di più il vizio e il capriccio e poi ovviamente sono anche molto attente all'immagine. Ci sono però anche spinte, se vogliamo, biologiche, connaturate. Eccoci, giustifichi un po', non ci dica solo che siamo viziate e capricciose. No, c'è proprio un problema di DNA. C'è un discorso che è legato al meccanismo della seduzione. Noi sappiamo, per esempio, in natura, anche negli animali, il pavone fa la ruota e la ruota del pavone contiene, diciamo, delle cose che luccicano. Comunque il luccichio in natura attira e fa parte dell'agghindamento per la seduzione, per cui la donna è attenta a questo aspetto anche perché è appunto animale seduttore, per cui è sicuramente più attratta per esempio appunto dai gioielli. Le statistiche dicono che il gioiello non tramonta mai, è sempre in pole position nella tipologia. E certo, il diamante è il miglior amico della donna. Purtroppo, se anche poi la cinematografia e le canzoni ci mettono il loro, qua non possiamo proprio sottrarci a questo destino che ci viene appioppato, no, dottor Cucchi? Quindi, insomma, esatto. È una questione anche di un qualcosa legato ad un meccanismo di seduzione. Però è un'immagine molto bella quello che lei, a prescindere dal commento folcloristico che posso fare io nel tentativo di giustificare l'atteggiamento femminile di fronte allo shopping, però c'è qualcosa proprio di fisiologicamente connaturato. Volendo guardare poi degli aspetti, se vogliamo, un po' più problematici, vediamo che spesso la donna è sicuramente più bisognosa di coccole, in senso anche qui neurobiologico dell'uomo, e talvolta se si associano anche un po' di solitudine e un po' di bassa autostima, comportamenti come l'acquisto compulsivo piuttosto che appunto la gratificazione attraverso qualche cibo particolarmente buono ma non necessario e fuori pasto, piuttosto che la magliettina, diventa più presente nella vita delle persone. Interessante, perché mi ha dato l'assist, dottor Cucchi, per la prossima domanda che in qualche modo le avevo anticipato anche prima, sulla differenza di comportamento di fronte allo shopping, di fronte ai saldi, appunto, tra uomo e donna. Da tutto il ragionamento che lei ha fatto, io percepisco che dunque l'uomo è meno attratto, no, dall'andarsi domani ad infilare nei tunnel delle code davanti ai negozi, perché è in via teorica mediamente più sicuro di sé rispetto ad una donna, per cui non ha bisogno di questa gratificazione. E quindi l'uomo che, magari lo dico proprio da donna così interessata e single, l'uomo che domani osserverò in coda ad un negozio, ad un uomo insicuro? Ma allora, innanzitutto non sono così convinto in assoluto che gli uomini siano più sicuri delle donne. E la società d'oggi spinge anche l'uomo a essere molto attento alla moda, per cui è in salita il trend, è in crescita il trend dell'acquisto maschile, mettiamola così. Sicuramente fa parte un po' dell'animo narcisistico l'attenzione al proprio aspetto, per cui ci sono anche dei profili narcisistici all'interno degli uomini che tendono quindi ad avere più attenzione per gli aspetti legati alla moda e all'estetica, e quindi sono anche spinti sulla base di questa loro caratteristica personologica all'acquisto, un po' in realtà come le donne. Sicuramente l'uomo compra in maniera diversa, la donna ha una grandissima pazienza e appunto passa da un oggetto all'altro anche senza aver pianificato di andare in quello scaffale a priori. L'uomo invece tende ad essere un po' più pianificatore. Allora, invece senta, perché gli uomini sono così allergici allo shopping a due, anche se non è così per tutti, perché io noto molte coppie appunto in cui effettivamente c'è lei che guida tra gli scaffali, come lei diceva, e l'uomo che segue e lo fa qualche volta anche volentieri, non poi così passivamente, ma mediamente insomma lo shopping a due non è proprio come dire ciò che viene particolarmente ricercato. Lo dico anche come donna, perché non è che io proprio apprezzi tanto, cioè mi piace farlo da sola. Che dice lei su questo punto? In questo è vero, ci sono donne che possono preferire fare shopping da sole, soprattutto se hanno avuto l'esperienza con qualche uomo in qualche occasione di essere poi messa nella condizione di aver fretta. Diciamo che in questo caso l'uomo perde un po' un'occasione, se vogliamo. Perché faccia un po' questa raccomandazione. Che cosa si perdono? Perché succede, si instaura una dinamica interessante, per cui per la donna quel momento non è solo un momento in cui sta comprando qualcosa, ma sta condividendo qualcosa importante per lei con l'uomo e richiede all'uomo un certo tipo di attenzione e anche di consenso all'acquisto, che fa parte anche un po' della dinamica del complimento. L'uomo invece si spazientisce e sarebbe per l'acquisto, sì, questo va bene, invece la donna vuole vedere magari 15 vestiti e provarli tutti, invece l'uomo al secondo avrebbe già deciso. Quindi bisogna sempre trovare il modo di comunicare efficace. C'è Elena dalla provincia di Pavia che ci scrive che invece il suo compagno è proprio più malato di shopping di ogni donna che lei abbia mai conosciuto e qualche volta fa veramente fatica a frenarlo, e insomma anche qua un'altra dinamica interessante. Senta, dottor Cucchi, a proposito di difficoltà, denari a parte, comprare non è semplice, no? Perché oltre a destreggiarsi fra le offerte e riconoscere quelle più vantaggiose, ci sono persone che di fronte ad un'offerta ricca e allettante si perdono proprio, forse proprio quell'impulsivo del quale parlavamo prima, o impulsiva, non sanno che cosa scegliere. Alla fine, fra mille proposte, tornano a casa a mani vuote. Qua oggi scopriamo anche l'esistenza di un'altra sindrome, che è quella del sacchetto vuoto. È così? Diciamo che ci sono alcune persone che, prese un po' dal perfezionismo, dall'acquisto perfetto, davanti al saldo, non sanno scegliere perché pensano vado da un'altra parte perché magari lo trovo ancora più a buon prezzo. Non è questa la cosa migliore, per cui a furia di girare poi arrivano con i piedi questa peraltro è la deflazione. Decidono di rincasare mesti e si trovano un po' così spiazzati. Poi magari alla fine comprano l'ultimo visto in vetrina nell'ultimo giro della sera, che non è magari nemmeno quello che effettivamente volevano. Qui a volte l'indecisione è legata proprio al fatto di voler fare il grande affare. Ecco, sappia, dottor Cucchi, che io questa sindrome non ce l'ho, così se lei avesse voluto mai saperlo, adesso lo sa. Sentirei, prima di andare alle prossime domande con lei, perché dobbiamo anche analizzare il profilo, appunto, come ho promesso, dell'impulsivo, colui che ha la sindrome del chi me l'ha fatto fare, mannaggia me, nel senso che poi ci si pente dell'acquisto fatto, anche se magari è un buon acquisto, ho trovato a prezzo scontatissimo. Sentirei Natalina dalla provincia di Pavia, all'800 24 00 24. Natalina, benvenuta, la nostra prima donna di Cuore e Denari del 2015. Benvenuta. Buongiorno e buon anno. Altrettanto, Natalina. Scusatemi se magari avrò qualche difficoltà ad esprimermi, ma è la prima volta che partecipo a una trasmissione radiofonica. Non mi sembra proprio in difficoltà, Natalina, mi sembra molto vivace, ci piace questo modo squillante di far partire l'anno con noi. Ci dica un po', è pronta per domani? Sto ascoltandovi prima, ho detto, ho intenzione anch'io di andare nei prossimi giorni a fare un giro in un centro commerciale con delle mie amiche. Sì. Per sconti, per saldi. Ecco, però io appunto quando vado con l'idea di comprare cose che so che mi servono. Brava. Ecco, principalmente penso magari ai figli, al marito e poi anche per me. E cerco appunto di cercare cose che comunque anche nel saldo abbiano una qualità, cercando appunto cose italiane, se è possibile farle, che siano fatte bene e che comunque anche se hanno un prezzo ribassato però siano fatte come si devono fare, cose che comunque anche nel tempo poi hanno una durata e una qualità. Quindi lei, Natalina, non ha mai fatto quell'acquisto del quale poi tornata a casa ha detto oh, mamma mia, ma perché? Alcune volte ecco magari no, beh, ma perché no, però potevo sì, fare a meno, volte sì. Mi spiace magari perché ho esagerato magari nella spesa, perché se vedo che c'è l'occasione e che la qualità c'è la prendo. E questo lo magari anche nei confronti di mio marito gli dico, perché vai a spendere durante l'anno quando adesso hai la possibilità di trovare delle cose valide e non ne approfitti? Chiaro. Perché così risparmiamo durante l'anno, insomma. Grazie Natalina, buon anno, grazie molte, anche a lei. Tante belle cose. Dottor Cucchi, qua abbiamo trovato la pianificatrice per eccellenza. Sì, la persona che riesce a non resistere all'impulso lo devo avere adesso, perché sappiamo benissimo che certe cose, come la moda, segue delle onde stagionali, per cui è difficile resistere a comprare a gennaio, perché sembra quasi di avere un po' bruciato la piacevolezza di quell'oggetto. Sicuramente lei riesce a gestirsi sulla base dell'utilità e del risparmio. Andiamo invece a colui o a colei che non riescono a gestirsi e che però, una volta fatto l'acquisto più o meno incauto, devono gestire il senso di colpa che arriva dopo. Come si gestisce, come si affronta la sindrome del chi me l'ha fatto fare, dottor Cucchi? Beh, innanzitutto bisogna sperare che queste persone, nel chi me l'ha fatto fare, acquistino cose che hanno una portata economica, diciamo, rilevante e gestibile per il loro portafogli. È quello che succede tendenzialmente, perché gli impulsivi è vero che acquistano e poi magari se ne pentono, però è difficile che acquistino cose che costano molto, no, che sono fuori dalla loro portata tradizionale, perché l'impulsività in questo caso non si scatena, si scatena più sugli oggetti diciamo costo contenuto, che però insomma uno può anche concedersi la terza maglietta piuttosto che qualcosa come un ricambio. Si gestisce pensando che la vita è anche il carpe diem e che tutto sommato potrebbe tornare utile. Certo, bisognerebbe riuscire a imparare a riconoscere il proprio comportamento e quindi pianificare meglio le uscite per negozi, quelle in cui uno poi può pentirsi. Poi mi dice a che profilo corrisponde quello di una mia amica che dice: oggi i soldi ci sono, domani no, per cui oggi che ce li abbiamo un po' magari spendiamoli. Valeria ci scrive: gli uomini apparentemente comprano meno perché ci pensano le mogli. Valeria, io condivido perfettamente quello che lei dice. Mario sostiene che in quelli che abbiamo elencato, dottor Cucchi, manchi un quarto profilo, e cioè quello di chi fa un giro e se trova qualcosa che serve lo prende, però credo che questo sia il pianificatore, perché può essere comunque, come dire, collocato forse nella prima fascia dei nostri profili. E Luca da Lecco, come dire, rafforza un po' un concetto che secondo me il dottor Cucchi ha già espresso all'inizio della trasmissione: la differenza fra i sessi rispetto agli oggetti è radicale. Gli uomini sono sul versante dell'avere gli oggetti, le donne l'essere l'oggetto del desiderio. Le piace, dottor Cucchi, questo commento? Vero? Senta, qua dobbiamo invece confortare Diana da Ferrara, che è proprio in assetto di guerra e pronta con la carta di credito in mano a scatenarsi. Diana, buongiorno, ci faccia sognare. Io sto andando. No, mannaggia, l'abbiamo persa, ma adesso la recuperiamo perché voglio chiudere in bellezza con un commento di un nostro ascoltatore. Dottor Cucchi, però c'è anche il tema che qua è un po' più serio, dello shopping compulsivo, perché ad un certo punto c'è anche quel momento in cui per qualcuno arriva questa sorta di dipendenza. In pratica non si riesce a trattenersi dal metter mano alla carta di credito e ad accaparrarsi qualunque cosa, come proprio la protagonista di Love Shopping. La sindrome del compra-compra colpisce purtroppo, ahimè, soprattutto le donne. Ci dica un po' quali sono le avvisaglie, così domani ci diamo una regolata? Beh, uno non arriva domani ignaro di essere un profilo a rischio, per fortuna. Beh, magari la malattia e le battute iniziali e possiamo ancora prevenire qualche cosa. Sicuramente queste persone vedono e sentono nel gesto dell'acquisto una forte portata emotiva. Possono essere delle persone che tendono a sostituire il bisogno emotivo di gratificazione con l'acquisto, per cui appunto sostituiscono qualcosa che non riescono ad avere in altri canali, come le relazioni o la realizzazione lavorativa professionale, con l'acquisto. E questo diventa pericoloso nel momento in cui è reiterato, cioè lo facciamo regolarmente, perché non riusciamo più a sviluppare delle contromosse negli altri ambiti, che invece sarebbe più fisiologico. Altre forme invece hanno proprio nella caratteristica della ripetitività del gesto, quindi pur non volendolo fare, quando mi trovo nell'occasione, avendoci rimuginato, avendo sempre in testa l'idea di dover acquistare, sento proprio l'adrenalina dell'acquisto, per così dire, e quindi alla fine ci devo passare in negozio e comprarmi qualcosina. Questo è un'altra forma problematica che assomiglia di più a quella del gioco patologico, per esempio, piuttosto che delle dipendenze tradizionali. Abbiamo riacciuffato Diana da Ferrara, che rapidamente ci aiuterà a concludere la nostra trasmissione. Diana è pronta? Sta andando adesso? Cosa hai in mente di comprare? E si è data un budget? Non so ancora di preciso, budget direi abbastanza basso. L'unica cosa che faccio, tutti gli anni dico che non porterò la carta di credito ma qualche contante, poi alla fine purtroppo invece la carta la prendo. No, Diana, tracciamoli questi pagamenti che aiutiamo un po' tutta l'economia. Ma spendo molto poco, c'è poco da tracciare. Però è un momento leggero, divertente, che mi concedo in mezzo a un sacco di problemi economici e quant'altro. Ecco. Quest'anno ho deciso di farlo senza nessuna amica, senza nessuno, da sola, in modo che posso gestirmi tutti i miei orari e tutti i miei punti di E senza il pericolo del giudizio altrui, Diana. Perfetto. Purtroppo devo salutarla rapidamente, ma abbiamo colto l'essenza del suo messaggio. Buoni acquisti, naturalmente. Grazie per aver chiamato e buon anno. E noi siamo stati invece molto gratificati dalla presenza del dottor Cucchi questa mattina a Cuore Denari, che ringraziamo per essere stato con noi. Ci siamo divertite molto. Dottore, naturalmente buon anno anche a lei. Grazie mille a tutti. Ci risentiamo presto in una prossima puntata di Cuore e Denari, che termina qua. Grazie a tutti, buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì.